Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. 12ª puntata. Marco è un cugino di Sara, è infermiere. Gli dico: hai visto in che reparto mi hanno messo? C'è un errore, diglielo. Marco è una brava persona, pervasa di etica e politica attiva. Mi cammina avanti, io mi guardo intorno. I letti sono nascosti da separe bianco sporco. Non ho bisogno che aggiunga altro, sento di essere in un reparto di malati terminali, è chiara la percezione. Mi trovo a letto con una ragazza, siamo girati ambedue sul fianco, ci guardiamo, lei mi tiene la mano, non dice nulla, ha i capelli lunghi e rossi, colorito giallognolo, un buco al centro della gola. Non devo scappare, anch'io sono una bella persona, questa ragazza ha bisogno del mio affetto, non della mia paura, del mio ribrezzo per la morte arrivata così vicina. Ma adesso la sua stretta aumenta di intensità. La ragazza cerca di stringermi a sé, indissolubilmente. Preso per i capelli. Questa frase aleggia nel bianco interrotto da ombre e nei suoni attutiti da una dimensione parallela che ancora non converge, ma convergerà perché mi hanno preso per i capelli. Il doctor e gli altri due personaggi hanno parlato a lungo con i medici del piccolo ospedale della cittadina. Poi un'ambulanza mi ha caricato e riportato a Sorate. Nessun dolore, ma il riflesso del mio viso sulla ringhiera di metallo della brandina mi atterrisce. Gli occhi sono infossati in un viso livido, gonfio e deforme. Ho due flebo montate ai lati, gel, ventose e cerotti sul petto. Fili che arrivano a una macchina lampeggiante. Mi sa che stavi facendo un incubo, ho pensato di svegliarti, non ti preoccupare per l'auto, la riporta su Giulio. Perché non mi avete portato in un ospedale? Il mio studio è molto attrezzato, comunque non ti è successo nulla di grave, sei come nuovo. Che mi è successo? Penso un blocco intestinale, qualcosa di simile. Il tuo organismo deve essere ricettivo, ma non devi congestionarti. Da quanto non defecavi? E che ne so? Che flebo sono? Disintossicanti. Disintossicanti un cazzo. Vitamine e sali minerali. Vitamine un cazzo. Vitamine disintossicanti. Ah, bel. Hai la faccia di uno che ha marinato la scuola. Un bambino che ha messo il termometro nel termosifone. Avevi poca voglia di correre stamattina? Avevi paura di qualcosa? Penso che tu abbia perso l'abitudine alla competizione, mesi ad allenarti, a prepararti scientificamente, ma la gara è sempre la gara. Giulio ha sbagliato su questo punto. Che stai dicendo? Che il tuo blackout fisico magari non è stata proprio simulazione, ma il tuo cervello ha alzato una specie di difesa. Ancora il cervello. Basta. Ho la faccia di un bambino a cui hanno fatto mangiare un sacco di merendine avariate. Ho la faccia che ha un pallone viola. Specchiati ora. Che è successo? Le vitamine disintossicanti del cazzo ti hanno sgonfiato. Preferivi un clistere? Nel 1994, Gabriele Visotti, un 14enne di Sasso Marconi, saltava 1,81 m. Aveva vinto i campionati provinciali e qualche garetta scolastica, primo nelle graduatorie regionali della categoria cadetti. Il suo allenatore si rammaricava, il suo allievo non aveva potuto gareggiare nella fase nazionale dei giochi della gioventù a Roma perché non aveva partecipato alla fase provinciale. Ah, interessante. Dovrei chiederti perché non aveva partecipato alla fase provinciale? Aveva preferito la gita scolastica di classe. Ma il tecnico diceva che Gabriele era giovane e ci sarebbero state occasioni future per farsi valere. E che storia è? Non so, ma non ho più saputo nulla di Visotti. Non ci sono state più occasioni per questo promettente saltatore in alto. Ti sei ammattito? Non credo abbia fatto bene ad andare in gita scolastica. Io credo di sì, e una vacanza farebbe bene anche a te. Perché Clara Arlati smise di correre? Era tutta la sua vita. Lei non avrebbe rinunciato a una gara per una stronzata scolastica. Non avrebbe rinunciato all'atletica per nulla al mondo. Che cazzo è successo? Senti, non lo so, non so niente di questa storia. So che la corsa di stamattina l'ha vinta Gaudenti con il nuovo record della gara. Ha messo in fila tutti gli africani. Il secondo italiano è arrivato 13°, un mulo toscano da corsa in montagna. Dovrei essere contento? Dovrei essere invidioso? Il problema è che non me ne importa nulla. Senti, quel Visotti, penso che non gli fregasse nulla di diventare un saltatore in alto. Ti riesce così difficile da credere? Il salto in alto è l'espressione della perfezione. Noi mezzofondisti siamo penosi. Beh, Gaudenti stamattina ha fatto 28,35 su un percorso impossibile, tutto spigoli e pavé. Mi sa che non c'è nulla di penoso. Claudio, devi gareggiare, assolutamente, e fare risultati, o diventi matto. Voglio andare in gita. Il padre di Sara mi aveva assediato per anni. Da bravo mezze maniche aziendale alternava palestra, tennis con colleghi di pari requisiti e sedute di jogging nel parco cittadino. Una buona fisicità, molto versatile, ma senza punte di eccellenza in nulla. Poi era arrivata inevitabile come una maledizione, la crisi dello sportivo cinquantenne. Si era manifestata con una maniacale fissazione per la maratona di New York, la massima espressione di impresa per chi sa poco o nulla di atletica. La sola partecipazione è motivo di vanto, una sfida contro se stessi proiettata all'esterno, urlata al mondo. Enunciarla tra sprovveduti è già un'autocertificazione di efficienza atletica di valore internazionale. Il padre di Sara aveva acquistato varie videocassette con la storia di questa maratona a partire dalle prime edizioni negli anni Ottanta. Doveva trovare molto fashion tutta la situazione, ma con tracce di eroismo. Era ipnotizzato da quelle ali di folla che incitavano i maratoneti al passaggio, dal primo all'ultimo, bocche aperte, braccia levate, bandiere, coriandoli, fischietti. Non gli era mai passato per il cervello che quell'esplosione di entusiasmo cieco potesse celare una sottile presa per il culo. Il padre di Sara, manager dell'area marketing di un'azienda farmaceutica, era abituato a illustrare lucidi e grafici nel corso di meeting in videoconferenze. Valutava strategie, sondava nuovi mercati e poteva vantare una capacità di comunicazione rara che lo stava portando a scalare le gerarchie delle multinazionali senza strappi, come conseguenza inevitabile della sua attitudine. La barba bianca accuratissima e il fisico segaligno lo facevano assomigliare ad una divinità inattaccabile, un mega direttore cosmico fantoziano. Era impossibile sovrapporsi alla sua voce. Si rimaneva ipnotizzati da quel suono celeste e da quella gestualità raffinata, quasi da direttore d'orchestra. Difficile capire cosa potesse spingerlo a trascinarsi in mutande nel freddo di novembre, per 42 chilometri sulle strade di una metropoli occidentale. Per quanto avessi cercato di trasmettergli le mie perplessità su questa impresa, rimaneva piacevolmente insensibile, sorriso dischiuso e braccia conserte. Dovrà lasciare l'albergo molto presto, dovrà urinare e defecare nei pressi della partenza. Non avendo nessun tempo personale, sarà negli ultimi tronconi tra la massa. Camminerà per chilometri imbottigliato prima di poter iniziare a correre. Non sarebbe meglio cominciare con qualche mezza maratona logisticamente più comoda? Nella nostra regione si organizzano mezze maratone molto qualificate, oppure gare su distanza normale attorno ai 10 chilometri. Troppo corte, troppo facili. Mi sono sempre posto obiettivi importanti nella vita. È fondamentale essere esigenti con se stessi. Prima di fare una maratona prenderei confidenza con l'agonismo, ma su distanze medie. Poi in un secondo tempo si potrebbe iniziare una preparazione specifica per i 42 chilometri. Magari dal prossimo anno. Tenga conto che una tabella per la maratona prevede almeno un'uscita settimanale di lungo, almeno 30 chilometri. È impegnativo, il suo lavoro le porta via quasi tutta la giornata, lei spesso in viaggio. Mi sveglierò alle 6 di mattina, mi allenerò anche durante le trasferte. Sono abituato ad aggirare ostacoli quando non posso saltarli con uno stile impeccabile. Userò il sabato e le domeniche per gli allenamenti più impegnativi. Claudio, ti stimo moltissimo. Sarei onorato di avere un atleta del tuo valore come personal trainer. Potremmo preparare una maratona italiana, una di quelle che si corrono in autunno, a Carpi per esempio. È a un'ora di auto ed è prestigioso, organizzazione perfetta, è un percorso molto piatto e veloce. Ne potremmo approfittare per farci una bella vacanza tutti insieme nella Grande Mela, io, te, mia moglie e Sara. Ci sono un sacco di agenzie turistiche specializzate in questi pacchetti. Pensa che bello, non faccio mai vacanze. Non mi piace il turismo fine a se stesso, ma con uno scopo preciso la trasferta assumerebbe un altro significato. Esattamente, cos'è che non ti piace nella maratona di New York? Nulla. Nulla in particolare. Un po' tutto. Non sono così sprovveduto. C'è un mio collega, uno laureato in legge che dirige l'ufficio risorse umane. Se lo vedi sembra un mezzo finocchietto, gobbo come un bibliotecario, stempiato, occhiali da miope, dimostra almeno il doppio della sua età. Siamo entrati in confidenza. È un ciclista amatore, ha 3 biciclette che costano come delle utilitarie. Gareggia nella Gran Fondo. Si muove con un camper che costa come uno shuttle. Beh, se lo vedi fa ridere. Invece è arrivato 30° in una gara con 3 passi dolomitici. Erano in 6.000 e il vincitore ha un passato da professionista. 3° al tour. Ti rendi conto? 30° non basta. Lunedì gli ho chiesto del weekend. Non l'avessi mai fatto. Tanto per diversificare ha corso la maratona di Firenze. Si è sgranchito le gambe in 2 ore e 50. Gli sport aerobici sono così. Persone con telai poco appariscenti hanno motori eccellenti. È normale. Frequenta lo studio di un medico sportivo nella zona, uno bravo. La cilindrata te la cambia a lui. È autorizzato a fare le visite di idoneità agonistica e se lo chiedi ti fa un programma di integrazione farmacologica. Ha un prezzo non propriamente economico, ma pare ne valga la pena. I miglioramenti non riguardano solo i risultati sportivi. È come se la vita rifiorisse. Siamo uomini. Ci siamo capiti, no? Sì. Siamo uomini. Anche tu avrai a che fare con medici sportivi. Al tuo livello so bene che è inevitabile. Deve essere una sinergia. Magistero tecnico, preparazione perfetta, aiuto chimico. Al mio livello, forse. Lo so cosa stai pensando. Per uno come me è pietoso darsi tanta pena. Prima ho mentito. A dire il vero, gli ostacoli non mi piace evitarli. Preferisco superarli in bello stile. E voglio il massimo della tecnologia a integrazione del mio impegno assoluto, della mia dedizione. Non è questione di scorciatoie, di truffe. Sono fatto così. E che senso ha ignorare la medicina? Sono o non sono un dirigente di un'azienda farmaceutica? Non avevo considerato questo aspetto. Io sì. Sto valutando l'idea di sviluppare il business della nostra azienda in questa area. E anche per questo che mi sto interessando alla cosa. Arriva tardi. L'EPO è già tra i primi 5 farmaci più venduti al mondo, poco dopo l'aspirina e il Valium. Si arriva tardi ma con grande energia. Sto cercando di dirottare fondi sulla ricerca per la medicina sportiva. È il futuro. Non si tratta di mollare l'attenzione dalle malattie serie. In un certo senso si fa prevenzione. Un organismo allenato non si ammala. Di EPO si muore. Il GH aumenta la velocità di riproduzione delle cellule sbagliate. Certo, certo, non mi riferivo a pratiche dannose. Riprenderemo questo discorso. Quando vuole. Allora, mi farai da tecnico? Ma è naturale. Claudio, sono emozionato. Per così poco. Lei nella vita ha costruito tantissimo, ha avuto grandi soddisfazioni. Si emoziona per così poco. Ti sembro un idiota, vero? In azienda è tutto così noioso. A volte devo assecondare il bambino che è in me. Lo sport me lo consente. Per te non è lo stesso. Il fatto di correre forte da bambino mi ha rubato l'infanzia, poi l'adolescenza. Correvo oltre, ero sempre nel posto sbagliato. Ma è difficile da spiegare. Dovevo fargli piccole tabelle di allenamento. In cambio lui non accennava a nipotini che non arrivavano. Aveva acquistato un cardiofrequenzimetro professionale. Al commesso del negozio si era limitato a chiedere il più costoso. Il libretto delle istruzioni se lo sarebbe letto a casa con calma. Oltre che le distanze da correre, dovevo indicargli i riferimenti delle frequenze cardiache. Non aveva più fatto cenno al medico sportivo. Gli dicevo che era inutile essere così puntigliosi. cercavo di fargli cogliere il concetto di buone sensazioni di corsa. Gli suggerivo di ascoltare il proprio corpo. Lui pareva capire, mi sorrideva benevolo, come se si rivolgesse ad un adepto di qualche cazzata New Age. Poi faceva domande troppo tecniche, assolutamente fuori luogo per una persona che correva 5 minuti al chilometro. Quando il fidanzamento con Sara era parso consolidato, aveva preso a seguirmi in giro per l'Italia nelle gare più importanti. Trovavo la cosa piuttosto imbarazzante. Poi di colpo era sparito, anche se Sara continuava a chiedermi di lui quando ritornavo dalle trasferte. Passava i fine settimana chiuso in alberghi e residence della Riviera Adriatica e mi usava come alibi. Aveva deciso di ascoltare il proprio corpo, di assecondare le sue esigenze. Aveva mollato tennis e podismo e io avevo perso con grande piacere il mio unico fan. E aveva smesso di torturarsi e torturarmi per la maratona di New York. Evidentemente gli aiuti del medico sportivo avevano agito sul livello di testosterone. Anche la carriera professionale aveva subito un brusco arretramento. Non gli avevano perdonato la debolezza sentimentale e di averla esibita con una dipendente di basso livello. La madre di Sara era ammalata di nervi, una strana espressione molto generica, con cui la figlia spiegava frettolosamente curiosi atteggiamenti. Nemmeno lei avanzava richieste di nipotini. Era preoccupata dall'insicurezza economica legata alla mia attività sportiva. «Oggi sei giovane, ma dovrai pensare al futuro. Potresti prendere almeno la maturità». Alternava momenti di iperattività, volontariato, corsi vari, ad altri di inattività totale. Era capace di dormire 16 ore filate, consumare un piccolo pasto e attaccarsi al televisore senza una parola, divorando televendite e quanto di peggio il video potesse vomitare. Ricaricava le batterie in questo modo, poi riprendeva i contatti sociali interrotti senza dare spiegazioni. Una delle prime donne in Italia a beneficiare dei miracoli della paroxetina. Sara era il frutto di questi due curiosi esseri, indefinibile nella sua individualità, sfuggente e disperata. Il mio era stato un corteggiamento breve e risoluto. Amici di amici, cene, gite fuori porto, telefonate da telefoni fissi nel dopocena infrasettimanale. Non era interessata alla sfera sportiva. Mi ero sempre mantenuto alla larga dai rapporti sentimentali con ragazze praticanti l'atletica. Le guardavo sgambettare nelle fasi di riscaldamento e i loro piegamenti negli esercizi di stretching a volte mi davano da pensare. Gli atleti conducono esistenze piuttosto tristi. Le ragazze si fidanzano con allenatori e fisioterapisti. I ragazzi faticano, vanno nei pub con gli amici che cercano di mettere in ridicolo la loro morigeratezza alcolica e gli orari da coprifuoco. Non sono rari i fidanzamenti tra giovani atleti. Sara stamattina mi ha chiesto chi è la ragazzina del video, anzi, mi ha chiesto direttamente perché la ragazzina del video piange. Mi sono fatto subito rancoroso per l'intimità violata e con una frasetta stronza e razzista le ho fatto capire che ho visto i suoi video. Non è parsa scossa e ha insistito, anche io ho insistito. Lei ha sbattuto due porte in rapida successione. Poi le prime marce del nostro monovolume hanno urlato lungo il vialetto verso la madre ammalata di nervi. Nessun problema. Sara aveva smesso di occuparsi della casa da tempo e non c'era assolutamente nulla da condividere. Non so quale tipo di guerra stia combattendo, ma non ho bisogno di nessuno al mio fianco. Solo la sua domanda era stata drammatica e centrale. Perché quella ragazza piange? Era strano, ma la prima sera a cena avevano mangiato moltissimo. Tutto ciò che volevano, senza limitazioni di quantità. I camerieri svolazzavano tra i tavoli rigidi ed efficienti. Strano che i due allenatori più anziani non avessero impedito nemmeno il bis di profiterol della pesista di Mantova. Insomma, avevano sbuffato oscillando il mento, poi si erano sciolti in un sorriso benevolo, come a dire «stasera sfogatevi, ma domani si inizia a lavorare pesante». Clara aveva notato come i ragazzini della sezione mezzofondo, solitamente troppo magri, brufolosi e impacciati rispetto a velocisti e saltatori, fossero carini. Aveva fissato un siepista toscano, ma poi era rimasta delusa dalla volgarità di quel dialetto allungato sulle vocali ed era tornata a scambiare confidenze con la ragazza seduta alla sua destra, con cui avrebbe diviso la camera. Una lunghista già vicina ai 6 metri a 15 anni. Avevano tacitamente deciso di ignorare i ragazzi. Dopo pochi minuti erano entrati in intimità. Non avevano fidanzati. Lo sport e lo studio saturavano tutti gli spazi mentali. Gli impegni quotidiani imponevano una rigida disciplina. I sacrifici erano condizione necessaria. Non conoscevano altre modalità di esistenza. Alle 9:30 si coricavano, dopo un po' di televisione. Il riposo non era inquinato da sogni o incubi. Alle 6 la sveglia interrompeva il sonno più profondo. La colazione era abbondante. Niente creme né caffè, solo tè, frutta e carboidrati. I primi sostegni farmacologici indicati come vitamine, la pappa reale, il lievito di birra e le pastiglie di eleuterococco. Per Clara alle 7 di mattina iniziava il primo allenamento. 50 minuti di corsa sulle mura che cingevano la città. Era il momento più bello della giornata. Correva in una nuvola di atleti adulti che la adoravano, certi di allevare un cucciolo di campionessa. La stuzzicavano con cambi di ritmo a cui lei rispondeva senza staccarsi, dalle 8:30 alle 12:30 le lezioni al liceo classico, poi, dopo il pranzo, 3 ore di studio, chiusa nella cameretta soffocata da coppe, trofei, targhe, diplomi, medaglie dorate che pendevano dalle pareti. Alle 17 in punto iniziava l'allenamento nella pista del centro sportivo universitario sotto la guida di Roberto. A inizio stagione aveva già corso 25 volte 400 metri in 1:16, recuperando un minuto di corsa lenta. Giovanni Ludeno ha letto Acido Lattico di Saverio Fattori, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.